Letture di Radio 24. A ogni fine anno arriva anche il momento dei bilanci. Il giornalista Enrico Beltramini prova a fare i conti in tasca al 2010 degli Stati Uniti d'America, anche per capire come si muoverà la democrazia del mondo nel prossimo anno. Si avvicina Natale ed è tempo di bilanci. Proviamo a farne uno anche noi, con riferimento alla politica americana. I 5 fatti più importanti, quelli che, almeno per un po', resteranno nell'immaginario politico americano. Primo, l'approvazione della riforma della sanità. Per chi non è americano, non è facile comprendere fino in fondo il valore pratico, ma soprattutto simbolico, di questa riforma. È dal 1932 che il paese discute se la sanità sia un diritto o un servizio. Intorno all'eventualità di questa possibile riforma si sono formate stratificazioni di discussioni, battaglie vinte e perse, momenti memorabili e meno, che hanno occupato generazioni di politici, commentatori e persone comuni. Insomma, un condensato della contrapposizione tra due visioni dell'America che si sono confrontate per quasi un secolo. Quella di uno Stato minimo, impegnato soprattutto a proteggere i cittadini dalle minacce straniere, e una visione atlantica, quella per cui lo Stato protegge i cittadini dagli eccessi del libero mercato. Qualunque cosa succederà l'anno prossimo, la riforma della sanità rimane un risultato di importanza storica e, per quel che riguarda Barack Obama, vale una presidenza. Secondo, le elezioni di medio termine, i democratici hanno battuto tutti i record negativi, anche quelli del 1966 e del 94. In quei casi, i democratici persero più di 50 seggi alla Camera dei rappresentanti. Questa volta ne hanno persi più di 60. Perché una sconfitta di proporzioni così drammatiche? Due possibilità. Le recenti elezioni dimostrerebbero che la crisi del Partito Repubblicano è rientrata, ipotesi meno probabile, oppure che i democratici si sono dedicati a priorità che non erano tali per il loro elettorato, ipotesi più probabile. Terzo, malgrado i risultati negativi delle elezioni di medio termine, il presidente Obama ha un tasso di consenso nel paese superiore a quello di Bill Clinton e Ronald Reagan nello stesso periodo della loro presidenza. Nel corso dell'anno scorso, il consenso del presidente era sceso in maniera costante. Nel 2010 ha superato la soglia del 50% all'inizio e poi è sceso ulteriormente per, infine, stabilizzarsi. I sondaggi confermano che il suo appeal è ancora forte nei suoi elettorati tradizionali, giovani e minoranze non bianche. È chiaro che la prossima campagna elettorale sarà una caccia al voto bianco. Quarto, l'occupazione langue. Per la verità non è un problema nuovo. Gli economisti ci hanno insegnato a convivere con l'espressione crescita senza occupazione, cioè un ciclo espansivo che non comporta un aumento dell'occupazione. Per esempio, gli ultimi cicli espansivi hanno visto la crescita delle attività indipendenti nella finanza e nell'immobiliare, ma certamente non nei servizi e nel manifatturiero. Oggi il problema è che non c'è nemmeno la ripresa. Siamo in una situazione di stallo. Gli stimoli economici hanno probabilmente salvato il paese dal collasso, ma non hanno avviato dinamiche positive. D'altra parte, il paese e gli elettori hanno mandato un messaggio chiaro alla politica: niente più spese. Così siamo in attesa del miracolo, oppure di una qualche dinamica internazionale. La politica sembra bloccata e il Congresso, per metà in mano ai democratici e per l'altra metà ai repubblicani, è un fattore paralizzante. Quinto, WikiLeaks. Al di là delle considerazioni morali, il rilascio dei documenti di WikiLeaks offre uno spaccato abbastanza interessante dello stato della diplomazia americana. Essa sembra ancora abbastanza old style, molto vicino a quella dei tempi della Guerra Fredda, fatti di dispacci riservati piuttosto che di satelliti, tecnologia e così via. Un'altra impressione è che, tutto sommato, il sistema di sicurezza che protegge le informazioni ha tenuto. Le notizie oggi pubblicate offrono episodi, giudizi su personaggi, immagini di incontri che fanno la gioia del lettore comune. Per quello più esperto, esse non contengono novità sorprendenti. Le informazioni veramente sensibili sono rimaste ben protette. Infine, sembra proprio che all'America di oggi il mondo interessa relativamente. Ovvio. I punti di crisi. Ovvio. L'energia, ovvio, le relazioni con la Cina e l'India, ma in generale oggi il paese è ripiegato su se stesso, impegnato a leccarsi le ferite e a immaginare come mantenere la leadership mondiale con un'economia in recessione e due guerre da finire prima che portino via troppi soldi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Beltramini, I 5 punti di un bilancio americano, pubblicato da Il Riformista il 21 dicembre. Letture di Radio 24. Una ricerca decreta il sorpasso al gioco delle donne sugli uomini. È il sesso debole, infatti, a tentare più spesso la fortuna. Il giocatore tipo è donna, oltre i 64 anni, abita in piccoli centri, pensionate, casalinghe, operaie e impiegate. Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori e giocatrici. Sì, giocatrici, perché secondo una ricerca Eurisco, le donne sfidano la sorte in numero maggiore degli uomini, in un mercato che coinvolge quasi 30 milioni di italiani, di cui 11 milioni sono utenti abituali. Ma gli uomini, in base a una stima di Agicos, investono nel settore oltre il 65% del movimento complessivo, che a fine anno sfiorerà la quota record di 61 miliardi. E di questi, oltre 9 finiranno nelle casse dell'erario. Il dato sulle donne resta comunque significativo. Ne sono consapevoli gli operatori, che avvertono la necessità di modificare i messaggi pubblicitari, per anni rivolti a un pubblico prettamente maschile, con risvolti meno aggressivi e messaggi più dediti all'intrattenimento. Ci penseranno i responsabili del marketing, a cui non mancano le leve per raggiungere i target più interessanti e accrescere la raccolta di un comparto in continua crescita. Sul piano geografico, il giocatore tipo vive al sud Italia. È presente soprattutto nei comuni da 10.000 fino a 100.000 abitanti. Una fetta importante è rappresentata dai giocatori, giocatrici, oltre i 64 anni, che in percentuale, 21%, sono leggermente superiori a quelli di altre età. La fascia meno interessata è quella giovanile, compresa tra i 18 e i 24 anni, con appena il 10% della popolazione. È più dedito al gioco chi ha un reddito di medio livello, rispetto a chi ce l'ha medio-basso. I poveri e i ricchi non rientrano tra i clienti abituali di questo comparto. I primi non hanno abbastanza quattrini da spendere nel gioco. I secondi non avvertono l'esigenza di andare a scomodare la dea bendata. A sfidare la sorte sono soprattutto i pensionati, le casalinghe, gli operai e gli impiegati, poco attenti al mercato, dirigenti, alti funzionari e liberi professionisti. Interessanti anche le motivazioni. La maggioranza gioca per tentare la fortuna, gli altri per vincere piccole somme o mettersi alla prova. Nei giochi numerici conta anche l'ispirazione. Il lotto, il superenalotto e il gratta e vinci sono i giochi preferiti da chi tenta la fortuna in modo sporadico. Le scommesse sportive piacciono a giovani e meno giovani, anche se implicano una competenza che non è di tutti. Quelle ippiche non riscuotono grandi consensi e infatti interessano solo il 3% della popolazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Grassia Sono le donne a tentare più spesso la fortuna al gioco, pubblicato da Il Giornale del 21 dicembre. Pacchi, pacchetti, pacchettini, alberi di Natale, fiocchi, presepi, luminarie per le strade, signore e signori con sacchetti e borse, Babbo Natale che suona la campanella all'angolo della strada. Per un padre di famiglia non c'è modo di dimenticarsi neppure per un minuto che siamo arrivati a Natale. Da un po' di tempo l'arrivo del Natale mi mette in ansia e credo che quest'ansia sia condivisa da molti capofamiglia. È un'ansia da prestazione, per così dire. Sarò io all'altezza di tutte le aspettative natalizie che amici e parenti, mogli, figli e nipoti appoggiano su me? Avrò pensato anche io a tutti i regali e regalini, biglietti e bigliettini da mettere sotto l'inevitabile albero, inevitabile soprattutto quando ci sono i bambini? E se anche decidessi di sottrarmi a questi obblighi, come farei se invece fossero gli altri a ricordarsi di me e coi loro regalini, biglietti e bigliettini mi obbligassero a fare altrettanto? Se decido di non pensarci, sono gli addobbi natalizi luccicanti nelle strade e nei negozi a obbligarmi a pensarci mentre cammino. Sono le vetrine a ricordarmi che non posso assolutamente evitare di comprare almeno un piccolo oggettino, un pensierino, un ricordino. E come fare, arrivato il giorno fatidico, a sottrarsi al tavolone col cenone e al famiglione raccolto per l'occasione? Sono questi i momenti in cui emerge tutta la fragilità dei nostri rapporti, l'impossibilità di allegria e anzi la malinconia dell'attesa di una festa che non diventa mai una festa vera. Ma sì, cerchiamo di reagire, mettiamo su il teatrino natalizio e applaudiamo, non facciamo i guastafeste. Rispettiamo il nostro ruolo di pater familias con tutte le incombenze del caso, perfino l'allegria. Dopotutto mi dico, non è colpa tua se le cose stanno così e i sentimenti poco nobili che ti attraversano sono più o meno questi. L'ansia da prestazione natalizia e quel che segue è determinata da quello che tutti abbiamo fatto al Natale, da quello cui l'abbiamo ridotto nel momento sbagliato, ad essere cioè una festa del consumismo in un momento di crisi economica, quando se ne va tutto il doppio stipendio o la magra superpensione natalizia. Parlo del ceto medio, naturalmente, non dei ricconi. In spese superflue e insignificanti, della cui inutilità ti accorgi solo quando spacchetti il pacco sotto l'albero. Abbiamo ridotto il Natale ad essere una festa che non ha più niente di religioso e che ha perso quella sacralità. Allora sì, il Natale era per me il Natale e lo aspettavo con un'ansia molto diversa da quella di oggi. Oggi il Pater Familias si augura che il Natale e le relative feste passino presto e le Mater Familias si augurano che le fatiche cui sono costrette per mancanza di servitù, sto parlando sempre del ceto medio giù di lì, non siano troppo pesanti e così le tavole da apparecchiare e quelle da sparecchiare e la cucina da riassettare. Forse l'unica cerimonia che si salva, l'unico momento veramente natalizio, almeno per i credenti, è la messa di mezzanotte che ancora le moltitudini frequentano. È bella la chiesa illuminata da mille luci, solenne il silenzio e bello e riposante dopo tanta baldoria il raccoglimento. Allora, per un breve spazio di tempo, il Natale torna ad essere Natale e tu pensi al buon Gesù e a quel che ha significato per te e per tutti gli uomini la sua venuta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raffaele La Capria «Quanta ansia prima di Natale», pubblicato dal Corriere della Sera del 22 dicembre. Dino Buzzati è lo scrittore, tra gli altri, dell'indimenticabile romanzo Il deserto dei Tartari, uno dei più bei libri del Novecento italiano, secondo il giornalista Indro Montanelli. Buzzati fu anche giornalista e dal Corriere della Sera per quasi 40 anni fu incaricato di fare gli auguri ai lettori o con un racconto o con una filastrocca o un articolo pubblicato di anno in anno sulle pagine del giornale di Via Solferino. Per quasi 40 anni il laico Dino Buzzati, il non credente dubbioso, fu ossessionato dal Natale. Pochi come lui, scrittore fra i più grandi del Novecento, hanno saputo scriverne. Dagli anni 50, il Corriere della Sera a dicembre gli chiedeva un racconto, una riflessione, una testimonianza. Alcune delle sue pagine più profonde sono ispirate a questa ricorrenza. Nel 1954 scrive, ironico, «Il Natale ritorna ogni 12 mesi, allo stesso giorno, 25, con precisione matematica. Non è quindi una cosa molto rara, salvo poi aggiungere che se ne resta sempre sbalorditi». L'inesorabilità del Natale è per lui l'inesorabilità del tempo. E in un racconto del 1939, intitolato Strano Natale, già compare una critica precoce al consumismo. Una Milano di uomini e donne paonazzi dal gelo che corrono, indaffaratissimi, lungo le vetrine splendenti, carichi di pacchetti con le più stupefacenti stoltezze comperate all'ultimo istante. Invece Dino, uomo solitario e malinconico, nella sua agenda di quello stesso anno, dove ogni giorno compila una fitta pagina, la notte del 25 dicembre lascia il foglio quasi in bianco. Solo un Natale, sottolineato, e due parole. È notte. Come a dire che non è una notte qualsiasi, ma la notte. Notte di che cosa? Notte dell'attesa, anzitutto. Il mistero della vita come attesa di qualcosa di tremendo e imprevedibile è stato trattato da Buzzati con metafore poetiche struggenti. I messaggeri, il fischio del treno, le campane. Ma forse nel Natale a quell'attesa è associato qualcosa che somiglia a una speranza, un'illusione magari. È, detto con un paradosso, la tentazione del bene. Buzzati non era ingenuo. Sapeva che gli esseri umani, soprattutto da adulti, tendono alla prepotenza e alla reciproca sopraffazione. Ma con uno scatto di reni, nel 1946, anno di regolamenti di conti, di Norimberga e del delitto di Rina Fort, che a Milano massacra la rivale in amore e i suoi tre figli piccoli a colpi di spranga, azzarda «Racconteremo ancora che esistono le fate, gli orchi, gli spettri e il diavolo. E ci crederemo di nuovo anche noi». perché queste, dopo tutto, sono paure sane e giuste, che può darsi risparmino, dopo molti anni, altre più incresciose paure, come quella del giudice istruttore. Profetico, no? Nel dicembre 1971, Buzzati si sente alla fine della vita. Come dice, ha ricevuto l'avviso. Un tumore se lo sta portando via. La moglie Almerina una volta ha ricordato che il marito le aveva confidato il suo disagio perché a fine anno sarebbe andato in pensione. Ma poi, con un sorriso amaro, aveva aggiunto: «Ma che me ne importa? Io non so neanche se arrivo a Natale». Pochi mesi prima della morte, che avverrà il 28 gennaio 1972, in un'intervista Buzzati parla della bontà come di una virtù suprema, superiore all'arte. Una virtù considerata allora come ipocritamente borghese, ma da lui descritta in decine di racconti. Una tensione al bene che permane, nonostante tutto, nell'uomo. E poi quel dubbio, sempre coltivato. E se sul serio venisse? Se la vostra bella sicurezza nella scienza e nella dea ragione andasse a carte 48? Siamo tra l'1 e il 4 dicembre 71. È andato a San Pellegrino, Belluno, sulla tomba della madre morta 10 anni prima. È il principio di dicembre. Farò in tempo a vedere il Natale. E aggiunge: ora sono seduto sugli scalini del porticato di destra. È freddo. Dietro di me, sul pavimento di pietra, c'è il blocco di pietra col l'anello che si solleva. E sotto c'è la cripta, con le bare vecchissime, quasi antiche, meno vecchie, ancora meno. Fino a quella della mamma. E io ho ricevuto l'ordine. E devo partire. Immobile io siedo, pensando, e non sento nessuna presenza. Che stupido a non aver portato i guanti. Neppure il guardiano c'è. Avranno compagnia i morti del cimitero il giorno di Natale. Avranno lumini, giocattoli, altri regali, torte la sera di Natale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Bianchi, Buzzati, L'ultimo Natale, pubblicato da Libero del 21 dicembre.